Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 12 Erode, ucciso Giacomo, fa metter Pietro in prigione, volendo dopo la Pasqua condurlo davanti al popolo per farlo morire. Ma facendo continuamente orazione per lui la Chiesa, tratto fuori con l'aiuto di un angelo, portò grande allegrezza, fratelli. Messe alla tortura le guardie della prigione, Erode va a Cesarea, e mentre non rigetta gli onori divini offertigli dal popolo, è percosso da un angelo, e mangiato da vermi se muore. In quel tempo medesimo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa. E uccise di spada Giacomo fratello di Giovanni. E vedendo che ciò dava piacere a Giudei, aggiunse di far catturare anche Pietro. Ed erano i giorni degli azimi. E avutolo nelle mani, lo mise in prigione, dandolo in guardia a quattro quartine di soldati, volendo dopo la Pasqua presentarlo al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione. Ma orazioni continua faceva asi a Dio dalla chiesa per lui. Ma quando Erode stava per presentarlo, la notte stessa Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, che sopraggiunse un angelo del Signore, e splende una luce nell'abitazione, e percosso Pietro nel fianco lo risvegliò, dicendo, «Levati su prestamente!» E caddero dalle mani di lui le catene. E l'angelo gli disse, «Cingiti, e legati i tuoi sandali!» Ed egli fece così. Egli disse, «Buttati addosso il tuo pallio, e seguimi!» Ed egli uscendo lo seguiva, e non sapeva che fosse vero quello che faceasi dall'angelo, ma si credea di vedere una visione. E passata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che mette in città, la quale s'aprì loro da sé medesima. E usciti fuori andarono avanti una contrada, e subitamente si partì da lui l'angelo. E Pietro rientrato in sé, disse, «Adesso veramente so che il Signore ha mandato il suo angelo, e mi ha tratto dalle mani di Erode, e da tutto quello che si aspettava il popolo dei Giudei». E considerata la cosa, andò alla casa di Maria madre di Giovanni soprannominato Marco, dove stavano congregati molti, e facevano orazione. E avendo egli picchiato all'uscio del cortile, una fanciulla per nome Erode andò a prendere l'imbasciata. E riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì la porta, ma correndo dentro diede la nuova, che Pietro era alla porta. Ma quelli le dissero, «Tu sei chi impazzita!» Ella però asseriva, che era così. Ed egli no dissero, «Egli è il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare. E aperto che ebbero, lo videro, e rimasero stupefatti. Ma fatto lor segno con mano, che si tacessero, raccontò in qual modo il Signore lo avesse cavato di prigione, e disse, «Fate sapere queste cose a Giacomo, ed ai fratelli». E partitosi andò altrove, ma fattosi giorno, era non piccol rumore tra soldati sopra quel che fosse seguito di Pietro. Ed Erode, fatto cercar di lui, né avendolo trovato, disaminati i custodi, comandò che fosser menati, e andato dalla Giudea a Cesarea, qui vi si fermò. Era egli rato coi Tiri e coi Sidonge. Ma questi di comune consenso andaron da lui, e col favore di Blasto cameriere del re domandavano pace, perché egli dava al loro paese onde sussistere. E il distabilito Erode vestito di abito reale, e sedendo sul trono, parlamentava con essi. E il popolo acclamava, voce di un Dio, e non di un uomo. Ma subitamente l'angelo del Signore lo percosse, perché non avea dato gloria a Dio, e roso da vermi, spirò. Ma la parola di Dio cresceva, e fruttificava. E Barnaba, e Saul, ritornarono da Gerusalemme adempiuto il loro ministero, avendo condotto seco Giovanni soprannominato Marco. Note, 12,1, in quel tempo medesimo. In quello stesso anno 4. Di Claudio imperatore, 44. Di Gesù Cristo. Il re Erode e ci Erode Agrippa, figliuolo di Aristobulo, nipote di Erode il Grande. Egli regnò 7 anni, e nell'ultimo anno mosse persecuzione alla Chiesa. Alcuni della Chiesa. La frase greca dà luogo di credere, che esse, Luca voglia dire, che la persecuzione di questo principe prendesse di mira i capi della Chiesa cristiana, e così sono state intese queste parole in qualche antica versione. Erode poté essere mosso a perseguitare i cristiani dallo zelo, che egli aveva per i riti, e le cerimonie giudaiche, ma è più verisimile, che il solo desiderio di darne il genio agli ebrei lo incitasse a incrudellire contro la Chiesa, e esse. Luca lo dice assai chiaramente nel versetto seguente. Esse Giacomo, detto il maggiore, fratello di Giovanni l'Evangelista, era figliuolo di Zebedeo, e di Salome, e probabilmente nativo di Betsaida. Così Giacomo beve il calice promessogli dal Signore. Matteo, 20:23. 12,3. Ed erano i giorni degli azimi. Questo fu il motivo per cui esse, Pietro fu messo in prigione, e non immediatamente ucciso, perché Erode non volle funestare quei giorni con ispargimento di sangue. Esse Giacomo era stato ucciso alcuni giorni prima. 12,4. A 4 quartine di soldati. I quali 4 alla volta lo custodivano, dandosi il cambio di 3 in 3 ore, e stando continuamente 2 alla porta, e 2 nel carcere con Pietro, e forse legati anche essi con le stesse catene, onde egli era legato. Erode lo faceva forse sì strettamente guardare, perché aveva risaputo i grandi miracoli che Pietro faceva, e che un'altra volta era uscito, senza che si sapesse il come, dalla prigione, Act 19. Presentarlo al popolo. Per soddisfazione degli ebrei, facendo loro vedere in catene un uomo, cui tanto odiavano, perché tanti della nazione aveva acquistati a Gesù Cristo, e lasciando ad essi l'arbitrio del genere di morte, col quale volessero farne fine. 12,6. Pietro dormiva. Legato con 2 catene. In qualunque stato di cose è sempre leggero, e tranquillo il sonno di un giusto tra le braccia della provvidenza divina. Le 2 catene le aveva Pietro alle mani, come si vede nel versetto 7. 12,8. Cingiti, e legati i tuoi sandali. I giudei avevano vesti larghe, e lunghe, le quali serravano alla vita con un cintolo, e se avevano a dormir vestiti, si levavano il cintolo. Buttati addosso il tuo pallio. Questo si usava ordinariamente nell'andar fuori di casa. 12,9. E non sapeva che fosse vero. Ma si credea di vedere una visione. La cosa era tanto nuova e meravigliosa che egli credeva a quel che udiva e vedeva piuttosto una visione intellettuale mandatagli da Dio per fargli intendere quel che una volta dovesse succedere, che un reale ed effettivo successo. 12,10. Alla porta di ferro che mette in città. Queste parole non ci obbligano a credere che la prigione fosse fuori della città, né che questa porta di ferro debba intendersi la porta della città, ma bensì che fosse la porta della stessa prigione, e dice che mette in città, per far intendere che questa era la 3ª porta, per la quale passar doveva Pietro per entrare in città, e avendo passato con l'angelo le altre 2, restavagli questa, che era la più difficile, perché era di ferro. 12,11. E Pietro rientrato in sé, disse, adesso. So, e ci rischiarato a poco lo stupore, per cui era stato quasi fuori di sé, vide finalmente avverate in sé quelle parole di Isaia. Hanno fuggito il terror della spada, il terror della spada pendente, il terrore dell'arco teso, il terrore del duro combattimento, 21:15. 12,12. E considerata la cosa. Avendo pensato alcun poco a quel che far dovesse in tali circostanze. Andò alla casa di Maria madre di Giovanni. Giovanni Marco, differente da Marco Evangelista, era cugino di Barnaba. Di lui si parlerà altre volte in questo libro. Dove stavano congregati molti. Impero che molte stavano congregati adunanze e dovevano farsi in molte, e diverse case da cristiani, che erano in tanto numero in Gerusalemme. 12,13. Una fanciulla per nome Rode. Rode è lo stesso, che Rosa. 12,15. Egli è il suo angelo. Vogliono dire, che era l'angelo di Pietro, che aveva preso la figura dell'apostolo, forse per far sapere qualche cosa ai fratelli per parte di lui. Questo è uno di quei luoghi della scrittura, sopra i quali è fondata l'antica opinione adottata poi dalla Chiesa, che Dio abbia dato a ciascun uomo un angelo per custode, e difensore. Vedi S. Matt. 18,10. 12,17. Fate sapere queste cose a Giacomo. A.S., Giacomo minore, fratello, cioè parente del Signore, vescovo di Gerusalemme, il quale trova vasi probabilmente nascosto in qualche luogo a cagione della persecuzione. 12,19. Dalla Giudea a Cesarea. Cesarea non era compresa nel paese propriamente detto la Giudea, ma bensì nella Palestina. Quivi si fermò. Vi si fermò per non molto tempo, perché Eusebio racconta che egli morì poco dopo le crudeltà esercitate contro la Chiesa, nel che pare appoggiato all'autorità di S. Luca, che descrive dopo il suo arrivo la sua morte. 12,20. Era egli irato coptirii e coxidoni. Città soggette a romani, ma con una certa ombra di libertà. Domandavano pace, perché egli dava al loro paese eci. Il territorio di Tiro e di Sidone non produceva abbastanza di grano da sostentare quelle due città popolatissime a cagion del gran commercio, le quali avevano perciò bisogno di estrarne dalla Giudea, dalla Galilea, Samaria, eci, che erano del dominio di Erode. 12,21. E il distabilito eci. Il secondo giorno dei giochi dati da Agrippa in onore di Claudio imperatore. Vidi Giuseppe Antic. 19,7. Vestito di abito reale eci. Di tela di argento con raro artificio tessuta, la quale battuta dai raggi del sole tramandava maraviglioso splendore. 12,22. E chi il popolo acclamava, eci. Ecco la vanità, e la superbia umana nel suo maggior trionfo. Erode in abito reale sedendo sul suo trono, cinto dai grandi del regno, e dai ministri della sua corte, dinanzi a lui gli ambasciatori di due potenti città, che gli domandano la pace, della quale hanno bisogno un popolo immenso, che lo ama, e l'onora, e giugne fino ad agguagliarlo con strabocchevole adulazione a una divinità. Ma noi vedremo ben presto avverato quello che Gesù Cristo aveva detto nel suo Vangelo, che ciò che è alto e grandioso negli occhi degli uomini è abominevole innanzi a Dio. 12,23. L'angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato gloria a Dio, eci. Non aveva represse e rigettate le voci degli adulatori, che lo agguagliavano a Dio. Con queste poche parole il nostro divino storico giustifica la vendetta che Dio si prese di questo re, il quale aveva ardito di portare la sua superbia fino al cielo. Da Giuseppe ebreo sappiamo che egli permetteva che i suoi adulatori lo chiamassero Dio e lo pregassero di esser loro propizio. Un uomo che dal suo solo spirito fosse stato guidato si sarebbe egli contentato di passarsela sì leggermente sopra la intollerabile arroganza di Agrippa, come fa S. Luca? Avrebbe egli potuto astenersi dalle riflessioni che si potevano trarre da sì gran fatto a favor della Chiesa e dei discepoli del Salvatore? Il solo Spirito di Dio poté render capace di tanta moderazione un ministro sì zelante della Chiesa, come era l'autore di questa storia, e questa moderazione e questa, per così dire, spassionatezza, la quale in questo libro spicca continuamente, rende a noi quasi visibile quella immutabile, e a tutti gli umani affetti inaccessibile sapienza, che lo dettò.